si adegua solo per mangiare. A sentire parlare non si può lottare, se a tavola manca il pane. Scogliera bianca che ci si può specchiare la luna, roba da sognatore, e il vento se la vede rubare per edilizia popolare. Guardare con gli occhi di chi lavora o di chi si lavora, sempre dell'inutile. Se un posto al mondo ancora non c'è, capire non sarà difficile che non sarà un gioco. Questo mondo l'opportunità, anzi tutti contro a far barriera, non c'è sconto.